Radio 24 Reportage. Io sono Micheluzzi Olivo, sono nato a Alba di Canazei in casa che una volta era normale, adesso non è più normale. Nel 1952 io ho 62 anni fra due giorni. Vivo qui da sempre, mi piace la montagna, mi piace sia d'estate che d'inverno. Senatore vuol dire che ho fatto tutti i sala ronda e una volta all'inizio, i primi anni, correvo per la classifica, ultimamente sto correndo per arrivare perché vorrei arrivare a 20 sala ronda e poi penso che non farò più perché è molto stressante mentalmente. Olivo la sua parte l'ha fatta ancora una volta. Tra i 581 partenti, 474 sono arrivati al traguardo, superando tutti i quattro passi nel rispetto dei cancelli, e lui ha messo nel sacco il 19esimo sella ronda con un ottimo 310° posto assoluto in 4 ore e 50. Una forza della natura. Sella ronda è un nome, diciamo, adesso un po' inventato, perché il nome classico era Giro dei Quattro Passi. Adesso si chiama sella ronda, che sarebbe giro intorno al sella, che è la stessa cosa più o meno, passando per i quattro passi. Quest'anno la partenza a Canazei, primo passo sella, poi si scende a Selva, secondo passo Gardena, si scende a Corvara, terzo passo Capolongo, si scende a Rabba, quarto passo finalmente Pordoi e arrivo a Canazei. Un altro anno invece la partenza sarà a Selva, poi a Corvara, avanti così. Ogni anno si parte da un altro paese a rotazione. È nata perché io e un mio amico facevamo gare di sci alpinismo, parliamo più di 20 anni fa, però tutti e due siamo maestri di sci e di giorno bisogna lavorare, e allora volevamo fare allenamenti un po' più lunghi. Come si fa a fare allenamenti lunghi se hai al massimo un'ora, due ore di tempo? Allora abbiamo detto, però si potrebbe provare a fare il giro del sella di notte. E bon, è stato talmente bello che abbiamo detto, domani lo rifacciamo. Però il mio amico, parlando con un dipendente degli impianti, questo dipendente fa, vengo anch'io. È venuto anche questo ragazzo. Questo dipendente, per caso, parlando con il suo datore di lavoro, che Diego Pelatone, che purtroppo è mancato qualche anno fa, gli ha detto di questa cosa. Il Diego, che era anche un po' atleta, 4 giorni dopo ha subito convocato questo suo dipendente, ha convocato me e una guida alpina, e lui fa, io vorrei fare una gara. Era febbraio. È bella, tutti quelli che fanno un po' di sci alpinismo, come ho fatto anch'io in altre occasioni, dicono almeno una volta bisogna farlo. Allora, Lorenzo Holznecht, abito a Bormio e sono nato il 12 dicembre 1984. Ecco Lorenzo, in quanti vivono di sci alpinismo in Italia? Direi pochi. Io sono uno dei pochi, posso ritenermi fortunato, a non far parte di un corpo militare e riuscire a vivere di questo. È una cosa davvero rara e difficile. Io ho avuto la fortuna di inanellare dei buoni risultati e questo mi ha dato sicuramente il merito di poter avere dei buoni sponsor. Ho vinto la Pierramenta, che è una delle gare più prestigiose del nostro sport, sempre nel 2012, che è stato un anno abbastanza d'oro. Ho vinto il campionato europeo 2 anni fa, e un anno mi sono classificato terzo nella classifica finale della Coppa del Mondo. Ho fatto qualche podio nelle tappe individuali, sempre di coppa. Il dato certo è che il record è stato certamente abbattuto. Siamo sull'ordine delle 3 ore e 5, 3 ore e 6 minuti. Una impresa incredibile, stratosferica, di questi due grandi campioni, Tadej Piuk e Pietro Lanfranchi. Ecco, attenzione, in arrivo, eccoli qua, ecco la seconda coppia, la numero 4, Manfred Reinkeber, Lorenzo Holznecht. che conquistano la seconda posizione, anche loro ampiamente sotto al vecchio record. Siamo sull'ordine delle 3 ore e 9 minuti. Eccolo qua, Reichegger Hotsnet. Le ore di allenamento sono più o meno, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda anche i miei colleghi con i quali ho i rapporti più stretti, sono circa 700 ore all'anno di allenamento, e le settimane più intense sono circa sulle 20 ore, 22 ore. Oswald Santin, originario di? Di Vipiteno. Ah, di Vipiteno. Io sono di Canazei. Ok, trasferito. Sì. È una gara ideale perché ha 4 salite e 4 discese e viene corso in coppia, per quello ci vogliono anche 4 gambe. E questo è il concetto, è quello il fascino del Sella Ronda. Si va in compagnia e, come se un vecchio detto che dice, in due si è più forti, in due si è in tre, e sul Sella Ronda vale al 100%. I volontari sono il cuore di questa gara. Senza i corpi volontari dispiegati in tutte le quattro valli, questa gara non si fa, non esiste. Tutti dobbiamo ringraziarli perché nessuno è pagato e tutti mettono a disposizione il loro tempo. È un sistema che si tiene per sé con l'iniziativa dei volontari. Quanti sono in tutto? Sono 450 volontari, più o meno. Una volta le comunità montane avevano anche momenti di scambio, raccolto e fasi così via. Sembra quasi che nel Sella Ronda si ricrea un po' questa comunità delle valli. È una mia fantasia da cittadino oppure no? È un bel paragone, mi piace questa cosa. Certo, una volta gli scambi tra i ladini si facevano coi passi. Anche noi ci facciamo gli scambi, anche se adesso siamo in 3 province e regioni diverse, ma lo scambio tra le valli è fondamentale. Noi anche quando ci incontriamo a fare le riunioni per organizzare, è uno scambio come una volta. Bello questo paragone. Andrea Zambaldi, marketing manager di Inafit per l'Italia. È una gara che per il suo valore paesaggistico, per la sua particolarità essendo una notturna e per il numero di partecipanti, che sono ben 600 coppie, 1200 persone, attira appunto gente da ogni parte del mondo e con ogni tipo di preparazione. Attira sia i super specialisti, attira gente che corre in Coppa del Mondo e attira anche tantissime persone, normali tourer, che provano solamente piacere a scivolare con le pelli sulla neve in su e poi in giù. Lo sci, diciamo, tradizionale sta vivendo una fase un po' di difficoltà. Tutto questo dovrebbe creare le condizioni ideali per quello che poi è il mercato di cui ti occupi. Devo dire che in effetti siamo in un periodo molto favorevole e tutto ciò che riguarda lo sci alpinismo riguarda anche una riscoperta di un mondo naturale che tante volte, soprattutto nella stagione invernale, veniva tralasciato a favore dello sci classico, sci da pista che tutti conosciamo. È una tendenza che sta pian pianino rivoluzionando, sta cambiando e sempre più persone si stanno affacciando al mondo delle pelli, non solo al mondo gara ma al mondo dell'escursionismo in generale con le pelli. È un'attività molto bella, è un'attività aerobica, è un'attività sia fisica, ma non lo definirei solamente uno sport, più in generale la chiamerei attività, perché per l'insieme delle sue caratteristiche, appunto, sia fisiche sia tecniche sia di conoscenza del paesaggio, del territorio, e riescono a chiunque di esprimersi in questo meraviglioso ambiente. Con la partenza si passa attraverso il paese e si va. Le 7:15 già, ma siamo appena partiti. Non ci arriviamo giù? Il tempo per il cancello no. Tolta la pelle e ora c'è un po' di radioascoltatori. Amarezza. Un filo di amarezza. Ma rimane la bellezza. Ce l'abbiamo messa tutta, questa sì. Ce l'abbiamo messa tutta, dobbiamo essere più veloci di un quarto d'ora l'anno prossimo. bisogna avere un minimo di esperienza. Non è la prima gara di sci alpinismo che si bisogna fare. Si possono fare le gare, le singole salite. Una volta che si è fatto le singole salite, ci si immagina a mettere insieme quattro. Allora ci si avvicina gradualmente al sella ronda, secondo me, e non per forza con la carta di credito e con l'iscrizione, con la testa. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.